Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Avarizia, lussuria, invidia, superbia, gola, ira, accidia. Se ne sono occupati filosofi, teologi, scrittori, pittori, psicologi, cineasti. Il tema, cari amici, è particolarmente intrigante e sempre di grande attualità. Nonostante pecchiamo dai tempi di Adamo, in forme e modi diversi, i sette peccati capitali hanno resistito all'usura del tempo. Ogni giorno li vediamo messi in pratica. La superbia. Pensate all'arroganza di chi intasa i parcheggi con i SUV, oppure a chi ritiene che una determinata persona abbia uno status troppo basso per affidargli i propri figli, o che il quartiere in cui abita sia troppo chic per accettare la presenza di stranieri. Per l'avarizia, pensate a quando si sfruttano gli sconti fino all'ultimo centesimo, agli armadi rigonfi che avete in casa, o alla perdita della minima decenza quando si tratta di dividersi un'eredità. L'invidia può ricordarci tutti i pettegolezzi che si fanno sui colleghi che ottengono buoni risultati, le osservazioni stereotipate sulle belle donne, o la fitta che provate quando qualcuno dei vostri conoscenti si è sistemato meglio di voi. L'ira richiama subito alla mente immagini di hooligans, di bulli per le strade e di vicini aggressivi che si rendono reciprocamente la vita difficile. Quanto alla lussuria, basti pensare agli abusi sui bambini, alle donne nell'industria del sesso e al sesso come ingrediente delle pubblicità, dei videoclip e dei film. Non è difficile neppure trovare esempi relativi alla gola. I fast food, le maxi porzioni di patate fritte e le gare a chi divora più hot dog sono solo alcuni di essi. E in riferimento alla pigrizia, non pensate solo a chi ama poltrire, ma anche a valutazioni come «mi costerà del tempo», al totale disinteresse e al mancato intervento di fronte a situazioni in cui, ad esempio, un vostro conoscente viene trattato ingiustamente, vostra madre vive sempre più in solitudine o la città in cui abitate si degrada sempre più. Così scrive Margaret Siskorn, che è una neuropsicologa clinica all'Università di Tilburg, una delle più autorevoli promotrici di ricerche che indagano il legame tra il cervello e il comportamento umano, nel suo libro I sette peccati capitali del cervello, Orme Editore, un libro proprio che sulla base delle ultime scoperte delle neuroscienze propone un viaggio alla scoperta dei meccanismi che ancorano i peccati al nostro cervello e del modo anche in cui ci guidano, ci condizionano. Noi ci fanno perseverare. Qui in studio con me il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht e a Miami. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Abbiamo in linea la dottoressa Tatiana Torti, che è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Buongiorno anche a lei, dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Questo è il nostro numero verde, 800 24 00 24. Professor Perna, le scienze cognitive e neurologiche fanno sempre nuove scoperte sul rapporto tra il carattere delle persone e il loro cervello. E questo ci dà modo anche di scoprire, come si legge sulla copertina del libro che ci ha suggerito il tema e da cui prenderemo spunto, di come i comportamenti peccaminosi sono radicati nel nostro cervello e perché soprattutto sono così seducenti. Ma Nicoletta, la considerazione è un argomento molto complesso, però sicuramente la prima considerazione è questa: esiste un piacere qui e ora, esiste una felicità a lungo termine. Ora, tutti i tra virgolette peccati, quindi quelle cose che ci procurano un piacere istantaneo, magari non approvato dalla società e quindi da comportamenti considerati disdicevoli, sono qualche cosa che ci permette qui e ora di ottenere un piacere immediato, ma rischiano di in realtà bloccare la possibilità di essere felici un domani. Facciamo un esempio concreto. Sì. Se io ho una relazione stabile e tradisco troppo spesso, certamente ho dei piaceri istantanei quando faccio queste cose qui, ma rischio di far saltare un rapporto, quindi alla lunga rischio di trovarmi senza aver costruito nulla. Se io mangio molto oggi perché mi piace, perché sono un goloso, certamente oggi è un grande piacere, ma domani rischio con l'obesità piuttosto che con il colesterolo alto di ridurre le qualità di vita. Quindi ciò che guadagniamo oggi talvolta lo paghiamo nel lungo termine. Certamente c'è un vantaggio attuale, perché se noi leghiamo un po' tutte quelle che vedremo durante la trasmissione, i vari peccati capitali, con alcuni elementi di sopravvivenza dell'individuo, questi diventano preziosi per la sopravvivenza e quindi sono radicati proprio nel nostro cervello. Dottoressa Torti, il peccato o i peccati a cui cediamo di più raccontano molto di noi e forniscono anche indicazioni importanti sul carattere e sul modo in cui prendiamo la vita. Perché anche i peccati, secondo la tesi dell'autrice, che oggi appunto riproponiamo ai nostri ascoltatori, hanno una sorta di, mi lasci dire, funzione. Oh, certamente sì, come diceva il professor Perna, il o i peccati che caratterizzano l'uomo raccontano chi siamo e prima di tutto rispetto alla nostra storia evolutiva. Quelli che vengono per esempio definiti peccati nascono in realtà delle funzioni evolutive importantissime per l'uomo. Se pensiamo all'avarizia o all'avidità ci rendiamo conto di come questi siano in realtà grandemente utili perché aumentano le probabilità di sopravvivenza. È chiaro che questi comportamenti si sono nel corso del tempo modulati, modificati grazie all'evoluzione anche del nostro cervello, essendo anche cambiate poi le condizioni ambientali nelle quali viviamo e alle esigenze dell'uomo. In merito a ciò, quindi, i peccati in cui indulgiamo di più possiamo dire che raccontano poi a livello individuale, poiché sono delle manifestazioni del funzionamento del nostro cervello, certamente, però raccontano della nostra personalità, del temperamento e soprattutto del carattere, che è quella parte che si costruisce con l'esperienza che facciamo. Quindi possiamo dire che i peccati che più ci appartengono derivano anche dai modelli di apprendimento, dalle esperienze che facciamo più o meno indirettamente nell'arco della nostra vita. Quindi, dottoressa Torti, ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa, chiediamo a quale peccato cedete di più? 800 24 00 24. E intanto saluto con grandissimo piacere Francesca Reggiani, che è in linea con noi. Ciao Francesca. Buongiorno Nicoletta, ciao, buongiorno, salve a tutti. Sono felice che tu abbia potuto intervenire con noi oggi in trasmissione e Francesca, io ti chiederei di dare il là alla nostra trasmissione. Sul libro di cui parliamo oggi è proposto una sorta di questionario basato su un'inchiesta realizzata dalla BBC in Inghilterra nel 2004 e ci sono una serie di domande che hanno proprio l'obiettivo di far parlare i lettori, in questo caso gli ascoltatori, dei loro peccati e del rapporto che hanno con questi. Per cui, se tu ti offri volontaria, io ti farei sentire la prima domanda. Posso? Allora, in volontaria non sono. Diciamo, ti ascolto con piacere. Diciamo, il peccato mio di questa mattina, virgolette, è che mi sono alzata tardi. Questo succede perché noi andiamo a dormire a volte molto molto tardi, capito? E questa è un po' la vita delle persone come te, degli attori che hanno spettacoli. Il peggio non è quello, però se uno lavora fino a mezzanotte e mezzaluna, torni a casa, una cosa e un'altra, fino alle due qualcosa, non dormi per l'adrenalina. Io, Nicoletta, non ho molto il senso del peccato, dunque, cioè, inteso in senso così, diciamo, conclamato del termine. Quindi fammi delle domande precise. La prima domanda te la facciamo subito sentire. Quali tra i 7 peccati capitali avete commesso in vita vostra? Avarizia, invidia, superbia, accidia, ira, lussuria, gola, nessuno in questo caso? Francesca? Ma io direi, avendo un'età eccetera, forse qualche volta, anche non volendo, un po' tutti. Perché, professor Perna? Una volta è stato invidioso indubbiamente, cioè è stato, cioè indubbiamente penso che tutti noi in maniera possibile, perché poi dipende, secondo me, la dose che fa il veleno, no? Professor Perna? Sono d'accordissimo con Francesca. Indubbiamente, tutti noi, voglio dire, nella vita di una persona che ha passato qualche decennio su questa terra, è evidente che capita e succede. Senti, invece negli altri, nelle persone che ti stanno attorno, qual è il peccato che ti dà più fastidio? È la persona, ad esempio, connotiamola, la persona avara, la persona invidiosa, la persona superba, quella che si lascia trasportare dall'ira? Guarda, l'avarizia è un tema interessante. Sì. Perché ci sono persone, ma lì diventa un disturbo però, a mio modo di vedere. Ci sono persone che hanno difficoltà a pagarti un caffè, cioè tu incontri degli amici al bar, che vuoi, che cosa gradisci, e poi al momento di pagare 3 caffè, una spremuta, si allontanano e quindi tocca a te. Ci sono persone che sistematicamente sono, diciamo, vabbè, quello forse è più inteso nel senso di tirchieria, però la tirchieria e l'avarizia poi diventa mentalmente un disturbo per qualcuno, Senti, se tu vai a cena con un uomo che ti porta in pizzeria e poi ti dice sono 13 euro e te li fa sborsare, cioè la parte tua, è forse non è avarizia, è una forma però un po' distorta del caratteriale. Abbiamo un uomo tra di noi, che è il professor Perna, che lo coinvolgiamo come rappresentante del sesso maschile, oltre che come psichiatra. Purtroppo il maschio è indifendibile troppo spesso, quindi do ragione a Francesca, soprattutto su due concetti. Uno, che questi peccati in fin dei conti sono peccati perché vengono bollati così molto dalla società, in realtà sono comportamenti che fanno parte del bagaglio di tutti noi. È vero che dopo, quando uno ha vissuto molto, non è incappato in queste cose, semplicemente ha avuto tante esperienze, fra cui anche questi tra virgolette peccati. È chiaro che il dosaggio fa la differenza, perché un conto è essere ogni tanto lussuriosi, ogni tanto avari e così via, un conto è che questo diventi un'abitudine del comportamento. Anch'io penso personalmente che l'avarizia è veramente una delle cose un po' più pesanti che caratterizzano l'individuo, anche perché è una chiusura verso gli altri. Ci sono peccati che ci fanno stare bene e ci sono peccati invece che ci tolgono energia, insomma peccati che ci danno piacere e peccati che invece ci impoveriscono. Secondo te, Francesca, qual è il peccato che ti dà più soddisfazione e quale è il che te ne dà meno? È una domanda, non lo so, mi sembra di essere da Marzullo. Ad esempio, qual l'invidia è il peccato che mi dà più, non lo so. L'invidia, ad esempio, secondo me, e chiedo anche aiuto alla dottoressa Torti, è una cosa che si rosica e per cui non ti dà piacere, no? Certo, stai parlando con me? Sì, sto parlando con Francesca. Scusami, e poi sentiamo. Ho l'impressione di essere in una bolla di sapone chiusa, quindi non riesco ad avere. L'invidia, pure lì, come si diceva, vuoi che noi che viviamo in un mondo anche difficile, per esempio, ecco, lavorativamente parlando, vuoi che tu che ti vedi passare, dico per dire, no? Soprattutto quando ero più ragazza, all'inizio di questo mestiere, assolutamente senza nessun merito, pinca palla che ti passa davanti, prende la parte, firma il contratto, eccetera. Vuoi che una non provi un po' di invidia per chi magari l'ha cavalcata prima e meglio, magari agli occhi tuoi senza meriti? Assolutamente sì. Vuoi, per esempio, che ti piace tanto pinco palla sulla spiaggia e arriva una assolutamente ragazza che non, secondo te, senza nessuna carta possibile per la così fascinazione del medesimo, invece magari riesce, tu non sei un po' invidiosa? A questo livello, voglia. Dottoressa Torti. Ecco, secondo me ha ragione Francesca nel momento in cui facciamo un distinguo tra l'invidia che possiamo sperimentare su di noi in relazione però ai confronti sociali intesi come disuguaglianze o ingiustizie. In questo caso mi pare che Francesca si riferisse più al versante dell'ingiustizia. Ecco, ci sono aspetti che possiamo controllare un po' meno, tipo questi, e quindi esterni a noi. In realtà poi l'invidia è anche un sentimento interno che quindi si basa un pochino sul confronto tra noi e l'altro. In questo caso potrebbe diventare e assumere un aspetto più positivo, diciamo così, se impariamo ad accettare la disuguaglianza e la differenza come in realtà ricchezza personale, nel momento in cui riusciamo a comprendere serenamente noi stessi, a porci dei confini e delle capacità. Francesca, tu in questo momento a che appuntamento ci dai per i tuoi spettacoli e per il tuo lavoro? No, io sto impalcando tutta quanta la stagione del prossimo anno, quindi sia teatrale che televisiva. Non vi do nessun appuntamento, ho alcune date. Sarò all'Auditorium Parco della Musica, che mi fa molto felice, sempre con lo spettacolo che si chiama Spaesati, e basta, tutto qua. E noi ti seguiremo. Grazie Francesca per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie, un abbraccio. Marco da Bologna, buongiorno. Buongiorno, guardi, la mia era praticamente una constatazione domanda. Cioè, quanto sono legati i sette peccati capitali al sentimento della paura? Se c'è un collegamento legato al cervello, al cervelletto, oppure dal punto di vista? Perché secondo me, ecco, sono molto collegati. Punto, questa era professor Perna. Ma la paura è una delle emozioni cruciali per la difesa e la nostra sopravvivenza, quindi essendo un'emozione anche profonda è legata un po' a tutti quelli che sono tra virgolette gli istinti che noi abbiamo. Sicuramente vanno fatti distinguo a seconda del tipo tra virgolette di peccato che noi abbiamo. tanto più abbiamo paura, tanto più giochiamo in difesa e tanto più facciamo fatica a investire nel futuro. E in quel senso, a quel punto lì, come dire, incassiamo tutto subito, perché i peccati capitali sono l'incassare subito dalla vita quello che uno desidera. Voglio il piacere, lo ottengo. Ho la gola, voglio mangiare qualcosa, la prendo. Piuttosto che ho dei soldi, me li tengo. Quindi più ho paura, più tendo a giocare in difesa e quindi tendo magari a... accettare questo tipo di peccati. Più sono fiducioso, più sono capace di rinunciare al qui e ora per il futuro e quindi investire nel domani. Dottoressa Torti, voglio leggerle un messaggio di un ascoltatore che non si firma, ma che ci dà uno spunto interessante. Il peccato è tale solo se lo nascondiamo, perché siamo noi i primi a giudicarci peccatori. Se non è nascosto, non è peccato. L'unico vero peccato è nascondersi. Beh, effettivamente possiamo proprio dire che è così, perché è molto difficile prendere contatto con dei sentimenti a volte anche negativi o comunque che ci travolgono, no? Quindi diciamo che i sette vizi capitali sono qualcosa che ci sembra travolgerci. In realtà, se noi abbiamo la capacità di guardarci dentro e di confrontarci appunto con quello che sono le nostre aspettative, i nostri valori, riusciamo poi anche a controllarli. Quindi nel momento in cui li analizziamo e li definiamo, ecco che quindi il peccato si risolve. Professor Perna, nel libro I sette peccati capitali del cervello, l'autrice dà una spiegazione biochimica, se vogliamo, del peccato. Ci sono delle aree, racconta di storie di pazienti che hanno avuto una lesione per un incidente magari al cervello e hanno cambiato drasticamente il loro comportamento proprio perché venivano attivate o disattivate delle aree cerebrali. Quindi questa è una versione che ci evita il giudizio sul peccato, ma ci fa capire perché siamo così ancorati al peccato, perché anche se il peccato ha avuto delle conseguenze negative sulla nostra vita, magari siamo stati scoperti rifacendoci all'SMS, noi continuiamo a farci sedurre dal piacere di peccare. Beh, la tentazione sappiamo che è difficile da vincere, sicuramente non si può evitare. Diciamo, la storia dell'uomo ci dimostra come la parte del cervello che si è più sviluppata nell'essere umano rispetto agli animali è la corteccia frontale, cioè quella che parte che sta sopra gli occhi, per intenderci, ed è un po' il domatore del toro che sta sotto. Il toro che sta sotto è la parte emotiva, dove sono presenti tutti gli istinti, tutti i bisogni, tutto quello che ti dice voglio tutto subito qui e ora. Allora, questo combattimento è fra il domatore da una parte e il toro dall'altra. Spesso, se una persona è sviluppata e cosciente, riesce a domare il toro. C'è anche da dire che se il toro è imbizzarrito sarà molto difficile, quindi bisogna in qualche maniera prepararsi prima per dominare i propri istinti, perché quando siamo di fronte all'istinto diventa veramente difficile. Rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori, aiutata anche dalla dottoressa Torti, a raccontarci in quale peccato cedono di più, quale dà maggiore piacere, quale minore, come suggerito proprio da questa indagine fatta dalla BBC. 800 24 00 24, ci piacerebbe stilare una sorta di classifica. Ad esempio, Virgi mi scrive: prima la gola, poi la lussuria, nell'ordine. Sentiamo Carla invece dalla provincia di Brescia e poi Fausto dalla provincia di Bologna. Carla, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Il mio peccato preferito è l'accidia. L'accidia perché ho avuto una mamma il cui credo pedagogico, io ho 63 anni, quindi sono dell'anzianotta, appartengo a una generazione quei genitori che ritenevano che i bambini non dovessero mai essere con le mani in mano, sempre occupati, quindi scuola, sì, orto, pollaio, e non ho mai avuto il piacere di starmene con le mani in mano. Adesso finalmente mi godo questa cosa, devo fare quello, no, non lo faccio, sto ferma, non faccio niente, per quanto sia possibile. È un peccato quello di Carla? Dipende, perché ricordiamoci che l'ozio nell'antichità era una delle cose più importanti per la crescita individuale, perché l'ozio, il momento di pausa, in qualche maniera ci permette di riflettere su noi stessi e sulla nostra vita. Quindi direi che dobbiamo distinguere ciò che è l'accidia, che è un eccesso in qualche maniera di pigrizia, chiamiamolo così, da quello che invece è un ozio, cioè la capacità di prendersi il proprio tempo per riflettere sulla vita e su noi stessi. Dipende da, sostanzialmente, da quello che è l'effetto sulla vita. Se ci ferma, ci blocca, è un conto. Se ci permette invece di prendere fiato e di comprendere tanti aspetti, è una cosa molto preziosa. Fausto, dalla provincia di Bologna, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda, più che rispondere direttamente alla questione che avete proposto adesso. volevo sapere, io ho 45 anni, perché avanzando un po' con l'età, diciamo così, sono più permissivo con me stesso, cioè invece di essere più teutonico, più chiuso, mi permetto molto di più adesso di quando ero giovane, diciamo a livello di peccati. Quando ero giovane ero molto più, insomma, categorico, se mi imponevo una cosa era quella e non transigevo. Dottoressa Torti, Fausto si vuole tra virgolette più bene con i tempi, la relazione con il peccato cambia? Beh, allora diciamo che dipende sempre dall'intensità, no? Rispetto a come il peccato possa essere, poi si possa cambiare nel tempo. Però sicuramente sì, forse lui si vuole più bene, nel senso che riesce maggiormente a riconoscere quali sono i propri bisogni e a non, diciamo così, frustrarli e quindi a non inibirli. Inibendone gran parte sicuramente si vive un po' male. Forse lui è arrivato a un'età in cui decide di assecondare alcuni piaceri e quindi forse la felicità aumenta in questo modo. Ma io farei anche un commento. Quando si è giovani si vede tutto in maniera dicotomica, bianco, nero, giusto, sbagliato, e quindi alcune cose vengono viste come un segnale negativo nei nostri riguardi. Col tempo e con l'esperienza uno capisce che la vita è un po' più complessa e quindi accetta di più quelle che sono alcune caratteristiche, tipo gli istinti, tipo i peccati che ci appartengono. Quindi diciamo ci si perdona di più. Essere e benessere. Ma ne consumi un'altra, sciagurata. Ma è possibile che non ti posso lasciare la scatola dei fiammiferi in mano? Ma che è colpa mia se quelle non si accendono? Soffi, così, oi. Hai visto se si accende? Sì, ho capito. Alla rovina mi vuoi mandare. T'ho detto tante volte che quando devi accendere il fuoco, i fiammiferi li devi spezzare in due. Li devi spezzare in due. Nino Taranto in Arrivano i dollari, un estratto che ci porta a parlare dell'avarizia, ma intanto ecco la domanda di oggi. Qual è il peccato che vi seduce di più? E voi cosa fate? Cedete o resistete? Raccontateci un'occasione in cui il peccato ha vinto, oppure raccontateci un'occasione in cui avete vinto voi sul peccato. 800 24 00 24 per voi, due libri di cui stiamo parlando oggi, due copie, I sette peccati capitali del cervello, Orme Editore. Professor Perna, abbiamo iniziato dall'avarizia, che come scriveva San Paolo era la radice di tutti i mali, perché le neuroscienze hanno scoperto che i circuiti cerebrali che si attivano per l'avarizia costituiscono una base rilevante per tutti gli altri peccati. È un po' la mamma, la madre di tutti i vizi. La giocare in difesa, cioè il discorso del tenersi tutto per se stesso, vuol dire appunto quello di non aver fiducia verso il futuro e verso gli altri. Quindi sicuramente quello è una base che aiuta a sopravvivere. Ricordiamoci che tra virgolette lo stitico dal punto di vista mentale è esattamente la persona che dona poco. Quindi entriamo in quell'eterno dilemma fra il proteggere se stessi e il dedicarsi agli altri. Sappiamo che per fortuna i più grandi personaggi dal punto di vista etico-morale sono esattamente le persone che hanno donato, pensiamo a Maria Teresa di Calcutta piuttosto che a Martin Luther King, mentre sappiamo che i grandi personaggi egoisti generalmente non hanno avuto successo nella società. Quindi sicuramente ci dice che il piacere istantaneo dell'avarizia non paga a lungo termine. Dottoressa Torti, tra l'altro le ricerche nel campo di quella che potremmo definire l'economia della felicità e che in particolare si occupano proprio del rapporto tra possesso dei beni e felicità, arrivano ad una conclusione che ancora una volta è stata anticipata dalla saggezza popolare, cioè che i soldi non portano, non fanno la felicità. Ebbene sì, infatti per rimanere in tema di saggezza popolare potremmo dire che il potere fa diventare ancora più avidi. Le ricerche economiche sulla felicità ci dicono infatti che mentre il reddito pro capite aumenta costantemente, la felicità però rimane più o meno invariata. Questo dato è importante perché quando si guadagna abbastanza per soddisfare i propri bisogni fondamentali per sé e per la propria famiglia, un maggior reddito può garantire una maggior felicità solo a breve termine, ma non in termini durevoli, anzi si nota come chi percepisce un reddito più alto in realtà sia più stressato, forse anche più preoccupato. Preoccupato di cosa? Preoccupato e stressato per riuscire a mantenere gli standard che ha, quindi molto elevati, e soprattutto meno dedito alle attività piacevoli o comunque ricreative. In questo caso direi che possiamo anche fare attenzione ai messaggi che vengono veicolati più o meno direttamente dalla società in cui viviamo, che ci spinge un pochino a consumare, in qualche modo anche a collezionare beni e servizi che vanno al di là dei bisogni fondamentali. Ricordiamoci che il concetto di felicità è spiegato solo in minima parte dal denaro, meno del 5%, ed è invece legato ad altri fattori molto più importanti, soprattutto legati al carattere, quali l'ottimismo e la sensazione di essere in grado di fronteggiare i problemi giorno dopo giorno, quindi di poter essere sicuri di avere qualcuno su cui appoggiarsi. E potremmo dire che la felicità è un percorso che si costruisce piano piano, dipende un po' dalle aspettative che ci poniamo, da come educhiamo anche la nostra mente, per esempio attraverso le cose che facciamo, i libri che leggiamo o le cose che ascoltiamo. Ma Marco di Alessandria mi scrive: se i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria. È abbastanza vero, nel senso che la dottoressa Torti spiegava una cosa importante: c'è un minimo di cui abbiamo bisogno e quel minimo è fondamentale. Sotto quel minimo è difficile costruire un bel niente. Il problema è quando si supera quel minimo, cioè ognuno di noi capisce che a un certo punto ha soddisfatto i propri bisogni. A quel punto l'accumulare denaro, il guadagnare, implica lo spendere tempo, perché ricordiamoci che il tempo è la cosa più preziosa, che alla fine non può ritornare. Quindi noi sappiamo che per guadagnare qualcosa in più dobbiamo usare il nostro tempo, e quel tempo non viene utilizzato poi per le cose personali. A me piace molto un motto di Nietzsche: che divieni ciò che sei nel percorso individuale, che non vuol dire accumula ciò che hai, ma vuol dire ritrova te stesso, e questo implica la possibilità di stare con se stessi. Anna, buongiorno, da Milano. Buongiorno, io declasserei il peccato dell'invidia, perché a mio parere l'invidia è insita in una persona, no, il peccato è una cosa che uno fa coscientemente, sa di peccare, mentre la persona invidiosa è invidiosa per natura. Può essere, professor Perna? Può essere, anche se forse tutti i vari peccati sono insiti nell'individuo, cioè tutti noi abbiamo una radice proprio biologica, il libro lo dimostra chiaramente in diversi aspetti, che legano le strutture del nostro cervello, il nostro quasi DNA, alla tendenza ad avere dei peccati. Ma i peccati è anche una parola un po' brutta, perché il peccato implica un giudizio morale in qualche maniera. In realtà sono degli istinti che pagano nel presente e invece ci danneggiano nel futuro. Sicuramente l'invidia è uno strumento anche di competizione, ne parlavamo prima con la dottoressa Torti, e quindi può in qualche maniera spronare l'individuo a fare dei passi avanti, sempre nella giusta dose. Ho due sms che voglio leggervi, da Andrea da Verona: 32 anni, da quando mi sono reso conto di essere una macchina da soldi, questi sono diventati la mia droga, ma mi hanno reso molto debole col sesso e con il cibo. Mentre un sms lanciato da Giorgio, che ci scrive: sono talmente pigro che spesso quando sono solo non mi faccio neppure da mangiare, salto il pranzo. Avete un consiglio rapido, che alle 13 inizio il turno di lavoro? Dottoressa Torti. Sì, allora, per quanto riguarda il primo messaggio, beh, è chiaro che più si accumula, più si è stressati, come dicevamo prima, e più l'ansia sale, quindi per poi alleviare immediatamente l'ansia si può sfociare anche in comportamenti disfunzionali, no? Quindi mangiare tanto cibo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il secondo messaggio, in questo momento passerei la parola al professor Perna. Alle 13 inizia il turno di lavoro, pigrissimo. Quando la pigrizia può dare un segnale di proprio rifiuto della vita, no? Dell'energia, è proprio un calo totale di energia, che ci rimanda anche a una condizione psicologica, sì, che può essere quasi patologica. Sì, bisogna stare un po' attenti, perché chiaramente un conto è la pigrizia, cioè la tendenza a sedersi e a non fare le cose. Un conto è il rischio di non avere energia, perché ricordiamoci che esiste la depressione, che è una condizione in cui abbiamo un crollo di tutte le energie psicofisiche dell'individuo, la persona si ferma e non si muove più. Non credo sia il caso del nostro ascoltatore, però sicuramente tutte queste forme, chiamiamole così, di peccato sono poi portate all'estremo delle forme patologiche, no? E entrano in veri e propri disturbi da curare. Nel caso dell'acidia, diciamo che non bisogna spaventarsi. Se qualche volta stiamo seduti con noi stessi e non pensiamo a nulla, non facciamo altro che fare quello che fanno in Oriente. Ricordiamoci che nella parte orientale la meditazione vuol dire stare fermi con se stessi senza pensare a nulla, sostanzialmente a lungo tempo, e questa è la pratica più importante per il benessere psicofisico. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno, per simil colpa, e più non fe parola. Par- parliamo della gola, il peccato che confessiamo senza timore, forse anche perché lascia il segno. In linea con noi abbiamo il professor Fabio Galvano, associato di scienze dietetica applicate all'Università di Catania. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Professore, la gola è dolce. La gola sì, è anche dolce, soprattutto dolce perché il motivo è abbastanza facile, nel senso che c'è un meccanismo che si è affinato in tanti millenni, milioni forse di anni di evoluzione, cioè quando già vivevamo ancora nelle grotte avevamo una spinta molto forte ad andare a cercare gli alimenti dolci perché chiaramente ci portavano delle calorie che per noi erano estremamente importanti. Con lo stesso meccanismo abbiamo imparato ad evitare gli alimenti amari perché potenzialmente tossici e quindi c'è una spinta evoluzionistica molto potente ad andare a cercare il dolce. Il nostro cervello ci ricompensa con che cosa? Con una forte scarica di dopamina ed è quella che poi andiamo a cercare appunto quando sentiamo il bisogno di mangiare dei dolci. Quindi il bisogno di dolce all'inizio era un vantaggio, ma funzionato come una sorta di vantaggio evolutivo, adesso che abbiamo tutto a disposizione forse no? Chiaramente, adesso invece è diventata una tara se vogliamo, perché abbiamo il frigorifero sempre pieno, ci muoviamo sempre meno e quindi quello che appunto è stato un meraviglioso meccanismo evolutivo oggi purtroppo ci crea qualche serio problema, considerando anche che la spinta è talmente forte che è molto difficile farne a meno. Basti pensare a certi studi classici condotti per esempio su animali da laboratorio in cui dei topini venivano posti in un labirinto al termine del quale vi era una ricompensa costituita da una bevanda zuccherata. Ebbene, la spinta ad andare a cercare la bevanda dolce era talmente forte che non solo i topini imparavano subito il percorso nel labirinto, ma erano anche disposti a superare essere colpiti da delle scariche elettriche pur di andare a trovare la ricompensa data appunto dalla bevanda zuccherata. E più la bevanda era zuccherata, maggiore era lo stimolo del topino. Del topini, questi topini. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, qual è il peccato che vi seduce di più? Eccedete o resistete? Quali sono le occasioni in cui il peccato ha vinto e quale invece avete vinto voi? Resistere alla gola, professor Galvano, tante volte è difficile, soprattutto ci sono dei momenti in cui cedere è più facile. Assolutamente sì. C'è un esempio classico che è quello costituito dalla fase premestruale nelle donne, in cui tipicamente aumenta l'appetito e aumenta soprattutto il desiderio di certi cibi in particolare, in questo caso il cioccolato la fa un po' da padrone, ma anche qui c'è una spiegazione di tipo evoluzionistico, nel senso che in previsione di una possibile gravidanza il nostro cervello ci spinge a mangiare di più affinché la donna possa immagazzinare energie sotto forma di grasso corporeo per poi sostenere la gravidanza e l'allattamento. Tutto questo ovviamente oggi non è più un problema, certo. E quindi questa tendenza premestruale chiaramente può creare qualche problema. Professore, però i dolci non possono essere sempre considerati peccati se non finiamo tutti nel sesto girone dantesco, la quantità fa la differenza, se no... Assolutamente sì. Assolutamente sì. Di per sé un cioccolatino o comunque un qualunque alimento di per sé non è un peccato se noi lo bruciamo, cioè svolgiamo poi delle attività fisiche che appunto ci consentono di bruciare queste calorie. Se invece queste calorie le andiamo a immagazzinare, allora diciamo che può diventare un peccatuccio. È un peccatuccio. Professore, si mangia un canolo. Quello è uno dei miei peccati. Vede. Io ripeto, compenso poi andando a correre ogni giorno. Grazie al professor Galvano per essere grazie stato con noi. A presto, arrivederci. Professor Perna. Stiamo parlando di un argomento generale importante, credo che non siano marzullate ma siano proprio elementi della vita. Un'altra riflessione in generale che mi veniva mentre stavo ascoltando un po' le varie ospiti è questo. In fin dei conti, se noi pensiamo, la vita spirituale implica il fatto di rinunciare al piacere terreno per la vita eterna. Quindi ci dà un messaggio, ci dice che se noi vogliamo ottenere qualcosa in futuro dobbiamo avere la forza di controllare gli istinti presenti. Le due cose importanti anche nella vita pratica, noi spesso rinunciamo a cose da acquistare oggi per comprarci una casa domani, quindi noi vedete che noi rinunciamo a dei piaceri istantanei per un domani. E l'ultima considerazione è che la corteccia frontale, cioè il domatore, è quello che rende più umano l'essere umano rispetto agli animali, quindi questa parte del cervello si sta sviluppando, quindi ci permette sempre di più di gestire i nostri istinti a favore di una vita futura. Vorrei parlare di un peccato insieme al dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno dottor Rossi. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Come si fa a non parlare con lei di lussuria? Che cos'è la lussuria per un sessuologo? In realtà la lussuria per un sessuologo è da identificarsi con quella che è una famosa malattia di cui si parla molto in questi giorni, che è la sexual addiction. E questa è un po', diciamo, la visione moderna della lussuria, anche se la lussuria ancora esiste, no? nel senso proprio della visione di un peccato, a parte tutta la questione del peccato, perché ancora comunque per le religioni la sessualità dà dei problemi ed è sempre molto molto vista con occhi, no, di traverso. Però diciamo che la lussuria, derivante proprio dal latino luxus, che significa esagerazione, trova ancora oggigiorno grandi manifestazioni. Faccio un esempio: le esagerazioni del turismo sessuale, le esagerazioni dello scambismo, le esagerazioni della sessualità ricercata a tutti i costi su internet, tutte le situazioni in cui non interessa alla persona lussuriosa l'altra persona nella sua interezza, quindi tutte le situazioni in cui c'è una difficoltà di confronto sono situazioni lussuriose. Dottor Rossi, è arrivato un messaggio da Stefano. Il peccato che mi tenta e a volte irresistibile è la lussuria. Avete un trucco per resistere, visto che non ne parla la mia partner quando arriva? Ma in realtà non è forse la lussuria di tutti i peccati capitali, e pensiamo a Dante che lo collocava molto lontano dall'abisso degli inferi, è forse il meno grave. Noi dobbiamo tenere conto che bisogna seguire tranquillamente i nostri istinti, sempre con il massimo rispetto dell'altra persona. Quindi in questo caso al nostro ascoltatore Stefano, che ci chiede un aiuto, probabilmente non è un lussurioso nel senso in cui quindi pone la domanda. Perché ecco, è questo che oggi cerchiamo proprio di fare nel corso della trasmissione: raccontare i peccati per capire quanto ci appartengono e quanto invece pensiamo che ci appartengano. Dottor Rossi, grazie per essere stato con noi. Grazie Nicoletta, a presto. Buonissima giornata. Professor Perna, a conclusione insieme con la dottoressa Torti di questa puntata, in cui abbiamo tralasciato alcuni peccati, ad esempio come l'ira, sì, che proprio per ritornare alla Marzullata è proprio un piacere, che un peccato che ci rovina proprio la vita, a differenza ad esempio della gola, che è più piacevole, no? Anche se poi ha degli effetti sulla salute. Questo è molto importante, perché l'ira ci dà un piacere istantaneo e poi paghiamo dei prezzi. Pensate, se ogni volta che siete arrabbiati col vostro capo dovreste insultarlo, perdete il posto di lavoro. Quindi la capacità di controllare questi istinti, chiamiamoli così, che poi sono travestiti da peccati, in qualche maniera vuol dire darci un futuro migliore. È chiaro che una dose abbiamo bisogno tutti, sennò la vita diventa piatta, però la giusta dose, per esempio il cioccolatino, che può valere un po' per tutti i vari tipi di peccati, risulta essere ciò che ci permette di soddisfarci oggi senza perdere però le prospettive del futuro. Dottoressa Torti. Sì, io non posso far altro che essere d'accordo col professor Perna. Volevo legarmi ai peccati parlando più di emozioni, quindi alla fine tutte le emozioni che noi sperimentiamo, compresa per esempio la rabbia, sono dei campanelli d'allarme che ci indicano qualcosa, quindi che ci indicano che un bisogno è stato frustrato piuttosto che qualcuno ci ha portato via qualcosa. Quindi un conto è riconoscere e identificare bene questo campanello d'allarme, e un conto poi è soddisfare appieno e subito l'impulso. Bisogna proprio fare questo distinguo, ma non temere le emozioni. Non averne paura. Non averne assolutamente paura. E a proposito di paure, voi avrete insieme la dottoressa Torti e il professor Perna, dedicheranno proprio un incontro sulle piccole paure. Sì, se volete. Che sono quelle che ci rovinano un po' la quotidianità, a cui tutti siamo, con cui tutti facciamo i conti. Sì, l'appuntamento è a Erba, alla biblioteca comunale, domani sera dalle 9 di sera in poi. Noi discuteremo le piccole paure con il pubblico, proprio perché la paura fa parte delle emozioni ed è una delle emozioni più importanti che condizionano la nostra vita. E allora l'invito per i nostri ascoltatori: se avete delle piccole paure e volete avere un'indicazione, un aiuto dal professor Perna trasmissione della dottoressa Torti, scriveteceli anche su Facebook, perché il professor Perna, dopo la sua riunione, con dopo il convegno, potrà rispondere anche sul nostro profilo Facebook alle vostre piccole paure. Intanto grazie per essere stati con noi, professor Perna, dottoressa Torti, grazie perché ci avete dato una mano, ci avete scritto tanti peccati, e questo lo chiedo, lo ringrazio i miei ascoltatori, al 349-238-6666. I due libri saranno dati a un messaggio di un ascoltatore che ci scrive che ha smesso di fumare, quindi ha vinto un vizio, anche se non è proprio un vizio il fumo, ma è una sorta di dipendenza, e anche ai messaggi che stanno arrivando su Facebook. Vi ringrazio e vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11.